Cari ragazzi, sono qui, sono tornato. Chiamate tutti gli altri, suonate la campana. Oggi riapre la scuola di un povero curato, un certo Don Milani, mandato qui a Barbiana. Anche se col tempo voi siete un po' cambiati ed i miei occhi non son più quelli d'allora, e se i vostri ginocchi non sono più sbucciati, stonati canteremo quella canzone ancora. I care, c'è bisogno che io abbia cura di te. You care, c'è bisogno che tu abbia cura di me. I care, è solo un modo per dire che d'amore ce n'è un bisogno più forte, il più forte che c'è. I care, I care, I care. Apriamo quella porta, risistemiamo i banchi, spolveriamo i quaderni, rileggiamo gli appunti. Forza miei giovani studenti, dai capelli bianchi, perché quello che conta è non darsi mai per vinti. Il mondo è un po' più ricco, la vita è sempre dura, e in questa catapecchia attaccata al Monte Giovi c'è ancora la canzone della nostra bocciatura, che insieme cantavamo per non sentirci soli. I care, I care, c'è bisogno che io abbia cura di te. You care, you care, c'è bisogno che tu abbia cura di me. I care, I care, è solo un modo per dire che d'amore ce n'è un bisogno più forte, il più forte che c'è. I care, I care, I care. Qui dove sono adesso non è così lontano, non fosse per il fatto che mi mancate tanto. Io, pur di star con voi, rinuncerei anche al perdono, e Dio lo capirebbe, di questo son convinto. Parola mia d'amore, parola mia,